Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti al nuovo appuntamento con Europa Europa. Dunque ripartiamo dalla proposta che la Commissione dovrà rendere noto il 27, cioè mercoledì prossimo, ed è di fatto il livello, come è stato definito, del pacchetto finanziario. Allora, il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, dice che rinforzeremo, e quindi la Commissione rinforzerà il pacchetto partendo dalle sovvenzioni, sia la parte sovvenzione che quella dei prestiti dello strumento per la ripresa dell'economia. Lo ha detto al termine dell'Ecofin della settimana, specificando che la Commissione sta discutendo su un pacchetto molto ambizioso. Si tratta di aumentare il finanziamento non in termini di centinaia di miliardi, ma di oltre un migliaio di miliardi. In questo caso, ha detto, parliamo sia di prestiti che di sovvenzioni. Il riferimento a 1.000 miliardi non è casuale. Dalla battuta di Dombrovskis sembra di capire che la Commissione vorrebbe proporre qualcosa di più in aggiunta all'idea franco-tedesca, quella dei 500 miliardi da raccogliere sul mercato. Ecco, diciamo, forti di questo quadro e in attesa naturalmente delle conferme del progetto vero e proprio della prossima settimana, noi ripartiamo da un ospite importante, il ministro degli affari europei Enzo Amendola, che questa settimana proprio a Radio 24 ha parlato di questo, partendo dall'urgenza di chiudere a giugno l'accordo sul Recovery Fund. Il tema è ovviamente quando arriveranno queste risorse, che sono sul tavolo, e adesso oltre a Sure, che abbiamo già approvato, 100 miliardi per la cassa integrazione, oltre alla linea di credito del MES per la sanità, oltre a un fondo della BEI per le piccole e medie imprese, dobbiamo chiudere a giugno un accordo sul bilancio europeo e questo famoso Recovery Fund. Quindi sul tavolo, rispetto a un mese fa, abbiamo molte cose su cui essere contenti perché significa che l'Europa sta reagendo in maniera coordinata e unitaria. Ora il 27 la Commissione presenterà la proposta, che sarà il punto di partenza del negoziato, che vogliamo chiudere a giugno, e c'è un accordo largo che anche il documento franco-tedesco sottolinea, che ovviamente questo accordo significa che gli anticipi delle risorse devono partire subito, non possiamo aspettare gennaio 2021. Certo, come in tutti i negoziati, non è facile mettere 27 interessi nazionali d'accordo. Però questo contributo franco-tedesco apre la via a scelte coraggiose, perché si parla finalmente di sussidi, non di prestiti, e la rappresentazione nord contro sud, onestamente, scusate, ma ha un po' stancato, perché non c'è questo dibattito. C'è un dibattito su come costruire un fondo, come farlo, perché la proposta franco-tedesca, che era quella dell'Italia e degli altri 9, cioè di fare un ricorso al mercato, quindi qui c'è il vero passo avanti che si è fatto nelle ultime settimane, cioè sì. Quindi abbiamo una strada nuova. Vedremo con i frugali quali sono le loro posizioni, perché al momento, al di là di dichiarazioni che secondo me valgono molto per l'opinione pubblica nazionale, io proposte non ne ho viste. In base a quello continueremo a negoziare, ma il punto di partenza sarà la proposta della Commissione il 27 maggio. Ma visto che è un tema che ci tocca e ci interessa tutti, direi, direttamente, sentiamo anche Enzo Amendola sul tema delle riaperture delle frontiere. C'è un lavoro comune per riaprire dagli inizi giugno, come faremo in Italia, in maniera coordinata, senza accordi bilaterali, tutte le frontiere interne a Schengen. Rispondendo alle domande di Simone Spezia e Maria Latella, Amendola ha poi parlato dei migranti. Stiamo lavorando per un nuovo accordo europeo sull'immigrazione. Era tempo, si era bloccato anche per le resistenze dei paesi dell'est, una gestione comune alle frontiere. E questo era una priorità di questa commissione ed è confermata. Come giudica da ministro degli affari europei l'azione di Malta, se insomma fosse provata? Beh, è un'azione che non è coordinata con i partner, noi siamo su una frontiera evidente esterna, noi la Grecia, Malta, la Spagna, e dobbiamo chiedere un comune sistema europeo di gestione dei flussi e anche della gestione dell'immigrazione che viene dall'Africa, ma si deve fare in maniera coordinata e solidale, assolutamente. E adesso cambiamo tema. Il 22 maggio, cioè ieri, è stato celebrato in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Biodiversità. La ricorrenza è stata proclamata nel 2000, quindi 20 anni fa, dall'ONU per celebrare l'adozione della Convenzione sulla diversità biologica. Per la Commissione europea è stata anche l'occasione di presentare la sua strategia per il 2030, quindi un progetto decennale in cui la biodiversità viene in qualche modo presa in carico, perché da una parte declina ad una velocità allarmante e dall'altra rappresenta sempre di più un elemento centrale dell'economia, dunque della ripresa economica. Allora, partiamo da Ariel Brunner, che è specialista di politica europea, attualmente a capo di BirdLife International. Brunner, peraltro, ha lavorato a lungo in Italia, dove ha contribuito alla riforma della legislazione nazionale sulle aree protette. It's essentially the first time that the EU political system accepts. È praticamente la prima volta che il sistema politico europeo accetta la realtà, cioè che abbiamo a che fare con la sesta grande estinzione di massa. Ci ritroviamo in una enorme crisi esistenziale che finora era stata negata o trattata come una sorta di questione marginale. Abbiamo 1 milione di specie a rischio estinzione, abbiamo perso la metà dell'avifauna in Europa. Alcuni studi rivelano il 70 o l'80% degli insetti. Gli ecosistemi si stanno letteralmente dissolvendo davanti ai nostri occhi. Questo era Ariel Brunner, lo risentiremo. Adesso sentiamo invece un europarlamentare che viene dal Grande Nord, Ville Niinistö, è membro dell'Europarlamento per il Partito dei Verdi finlandesi, EFA. Mankind has more or less taken control of... L'uomo ha pressoché preso il controllo di oltre 2/3 dello spazio aereo e questo influenza il modo in cui usiamo il terreno in maniera non sostenibile. Perciò, se non si ampliano velocemente le aree protette, non ci sarà più tempo per proteggere la biodiversità. Quando si parla di ambiente, di protezione, spesso purtroppo ci sono molte belle parole, poi però mancano le sanzioni, gli strumenti messi a disposizione dei governi, delle realtà locali per poi applicarle. Allora, di questo parla anche Kelsey Perlman, che è all'interno del Parlamento europeo, un lobbista, un sostenitore delle campagne appunto per la protezione delle foreste. Una legislazione per il risanamento che spingerebbe gli stati europei a formulare piani per risanare l'ambiente, che è particolarmente importante. E poi bisogna assicurarsi che ci siano fondi disponibili in modo che gli stati non rimangano a mani vuote, che non si trovino a dire: ok, è bene avere questo obiettivo, ma come facciamo a raggiungerlo? But how are we going to do this at the end of the day? Of course we understand that there is an economy inside of the forest and ovviamente comprendiamo che esiste un'economia all'interno della foresta e che realizzare prodotti in legno è importante. Perciò penso che ci sarà bisogno di riconoscere che si è esagerato con il disboscamento intensivo e lavorare per ridurne l'intensità. Trovare un equilibrio tra esigenze sociali, ambientali ed economiche, cosa che fino a questo punto non è avvenuta. Allora, su questo sentiamo ancora Ville Niinistö, lo ricordo, è finlandese, esponente del Partito Verde. Alcuni stanno cercando di promuovere idee che sarebbero parte della politica climatica, il che significherebbe ancor più degradazione della biodiversità. Perciò non possiamo continuare a tagliare alberi in maniera insostenibile e dire che ricaviamo biocarburanti se così causiamo una perdita di biodiversità. Non è una soluzione alla questione climatica. It's not a climate solution. Ariel Brunner, quello che serve ora è allocare, dice, risorse economiche e manodopera. Ma sentiamolo. We are looking here at hard commitments. C'è bisogno di impegni seri. Abbiamo parlato per decenni. Si tratta di allocare risorse economiche e di manodopera, di varare nuove leggi e rinforzare quelle vigenti. Tutto il resto, francamente, è aria fritta. All the rest, frankly, is hot air. Ecco dunque quali sono gli elementi di questa strategia. Una serie di interviste realizzata da Kevin Purcell per Euronet Plus, la agenzia con sede a Bruxelles, e la rete europea delle radio. Adesso cambiamo tra un momento, subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, o meglio cambiamo ma fino a un certo punto, perché passiamo dal tema della protezione a quello della produzione alimentare, che naturalmente ha tanti punti di contatto con quello di cui abbiamo raccontato finora. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano. Partiamo e parliamo di industria alimentare. Industria alimentare che è la seconda in Italia dopo quella metalmeccanica, quindi davvero un grande settore, fatturato nel 2016 intorno ai 132 miliardi di euro, comparto trainante dell'economia, anche della cultura italiana. Allora, lontano dai banchi dei supermercati, dove tanti sono stati in coda, anche dove siamo stati in coda durante il lockdown, c'è il mondo della produzione. I campi, le serre, i luoghi dove i prodotti vengono seminati, cresciuti e raccolti, poi quelli della trasformazione. I lavoratori agricoli sono 1.200.000 nel nostro paese. Cosa succede oggi nel mondo agricolo? In che maniera si muove l'Europa per sostenerlo? Ne parliamo con Paolo De Castro, politico, economista, agronomo, accademico italiano, parlamentare europeo, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale. Ma diciamo che sicuramente c'è una parte importante del mondo agroalimentare che ha tenuto bene, perché è tutto il mondo della distribuzione, del retail, dei piccoli, medi, grandi superfici di vendita. Quello che è crollato sono tutto il canale della ristorazione, dei bar, degli hotel, delle pizzerie, quello che noi chiamiamo il canale Horeca. La rete è completamente azzerato, quindi è circa un quarto della domanda alimentare è crollato, e purtroppo con questo quarto paghiamo anche una fetta importante del nostro export, perché il Made in Italy agroalimentare, come sappiamo, è forte soprattutto nel food service, nei canali della ristorazione all'estero, per cui ci sarà un calo importante anche delle esportazioni. Il meccanismo della raccolta e della produzione, allora, si è rimesso in moto? Sì. Allora, innanzitutto precisiamo che l'Europa immediatamente ha fatto una circolare molto importante che ha precisato questi green corridor, questi corridoi verdi, per dare la libera circolazione dei beni da una parte e dei lavoratori dall'altra. Purtroppo non tutti gli Stati membri l'hanno ben applicata, per cui abbiamo avuto dei blocchi alle frontiere con difficoltà di reperire una manodopera che, come sappiamo, è fondamentale proprio per la raccolta dei prodotti agricoli. Ecco che si è reso necessario semplificare queste norme, per esempio la quarantena attiva, ci stiamo lavorando per rendere possibile l'ingresso dei lavoratori rumeni, bulgari, di altri paesi, che però non devono mettersi subito in quarantena, altrimenti per 15 giorni arrivano e non possono lavorare. Quindi bisogna fare come hanno fatto i tedeschi, i francesi, queste quarantene attive, cioè delle regole molto severe, ma separati dagli altri possono iniziare a lavorare. Poi c'è un problema generale che è dovuto ovviamente a chi invece viene da più lontano, perché c'è il blocco degli aerei. Col blocco degli aerei non è facile, come non è facile per noi raggiungere Bruxelles, non è facile per dei lavoratori marocchini arrivare in Italia, e da qui stanno nascendo tutti questi voli charter più o meno organizzati anche dalle aziende di produzione per cercare di far arrivare questi lavoratori nel nostro paese. Noi abbiamo bisogno di decine di migliaia, centinaia di migliaia di questi lavoratori, che, ripeto, non sono tutti da regolarizzare, la maggior parte di questi sono già regolari. La regolarizzazione è una cosa sacrosanta, almeno dal mio punto di vista, che va fatta, complimenti alla ministra Bellanova, però il mondo agricolo non è che abbia solo dei lavoratori non regolamentati, anzi la maggioranza sono regolari. Ecco, quanti ne mancano in questo momento? Perché, ripeto, quando vediamo magari in televisione degli arrivi di singoli aerei, non abbiamo il quadro. A che punto siamo? Noi abbiamo bisogno di almeno 200-300 mila lavoratori all'anno. Era il famoso decreto flussi che in questo periodo dell'anno si faceva per regolare proprio i flussi di arrivo di lavoratori extracomunitari. Non facendo quello, proprio per i problemi della logistica, noi abbiamo assoluto bisogno di fare degli accordi con questi paesi per facilitare l'arrivo di questi voli che possono mettere in sicurezza. Ora però sembra che dal 3 giugno si riapriranno le frontiere, allora io mi auguro e spero che inizieranno anche i voli regolari per portare questi lavoratori al nostro paese. Cosa abbiamo perso nel frattempo? Il 3 giugno appunto è una stagione bella inoltrata, cos'è che non recuperiamo? Se riusciamo ad aprire il 3 giugno gran parte della frutta e ortofrutta riusciamo a salvarla. È chiaro che c'è stato tutte le primizie, oppure alcuni ortaggi che sono maturati, penso agli asparagi che sono già andati, oppure tante altre, diciamo, verdure che si sono già dovute raccogliere. Però la parte grossa della frutta, se riusciamo dal 3 ad andare avanti, si potrà recuperare. Ecco, lei ha citato poco fa la ministra Bellanova. Ora, c'è stato veramente un polverone politico intorno alla natura degli accordi presi per ammettere queste persone. Quindi è stata fatta, a suo avviso, avere un passo di chiarezza, magari definitivo, stiamo o quantomeno... Stiamo parlando di gente, in questo caso, stiamo parlando di lavoratori extracomunitari che sono già nel nostro paese, non cambia niente, è una regolarizzazione di lavoratori che sono qua. È diverso il ragionamento dei lavoratori marocchini, che hanno già carta di identità italiana, che vengono tutti gli anni... Regolarmente. O indiani regolarmente. Stagionali, insomma. I nostri prodotti di qualità sono fatti con questi lavoratori. Pensate alle comunità indiane nella zona del Parmigiano Reggiano, del Clan Padano, ai casari che sono di origine asiatica. Quindi questi sono lavoratori fissi che sono già regolarizzati, e il problema della regolarizzazione riguardava lavoratori che sono in Italia e che però appunto sono invisibili, per usare un termine che fa piacere alla ministra Bellanova, e che oggi speriamo possano diventare visibili dando un minimo di tutele. Paolo De Castro, cosa succede sul fronte del bilancio? Siamo dunque alla settimana che precede la presentazione di una serie di misure, ma sappiamo, e l'hanno detto appunto le figure di spicco dell'Unione Europea, che tutto si lega alla definizione di un bilancio più coraggioso. Come la vede sul fronte dell'agricoltura e della produzione agroalimentare? Ma intanto mi auguro che questo bilancio, che sicuramente sarà più sostanzioso, perché ci attendiamo addirittura di arrivare vicini al 2% del prodotto interno lordo, significherebbe quasi raddoppiare il bilancio europeo attuale, e che questo aumento di risorse, che servirà a fare il recovery fund e quindi tutti gli altri strumenti che abbiamo messo in campo, devo dire questa volta l'Europa con molta rapidità, se lo confrontiamo con la crisi del 2008-2009, dove ci dovemmo aspettare 4 anni prima di vedere delle azioni concrete dell'Europa, qui non abbiamo aspettato 4 settimane. Però mi aspetto anche che da questo aumento del bilancio europeo non ci siano tagli all'agricoltura e alle politiche di coesione. Sarebbe un controsenso far pagare queste misure così importanti agli agricoltori. Quindi mi aspetto una PAC, una politica agricola almeno pari a quella che abbiamo oggi. Gli agricoltori italiani lamentano storicamente sempre un problema, che è quello di quanto viene loro pagato per il lavoro, per il prodotto che poi viene consegnato al sistema. A che punto siamo su questo fronte? Lì abbiamo fatto davvero un passo molto importante la scorsa legislatura, approvando la direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali, cioè quella perdita di valore che parte dall'azienda agricola e poi si arriva al consumo, dove i prezzi sono molto più alti, ma non li incassano gli agricoltori, ma li incassano tutta una serie di figure intermedie che stanno tra l'azienda agricola e il consumatore finale. Questa direttiva la stiamo proprio recependo in questi giorni, in queste settimane. Mi auguro presto anche l'Italia possa avere una norma che garantisce gli agricoltori, la parte più debole, ma anche i consumatori, dalle pratiche sleali, da quelle pratiche che fanno pagare soltanto ai consumatori, ma non incassa il povero agricoltore. Dobbiamo dunque aspettarci, con l'arrivo dell'autunno, un aumento dei prezzi? Ma questo dipende dai vari comparti, non è detto che ci sarà un aumento dei prezzi, non è come la crisi del 2008-2009 dove ci fu un incremento dei prezzi dell'energia, dei carburanti, del gasolio, che portò immediatamente alle stelle i prezzi dei prodotti agricoli, in particolare delle commodity. Io mi aspetterei in questo caso, mi aspetto magari qualche fiammata in qualche prodotto ortofrutticolo, ma in linea di massima non mi aspetto un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. Grazie dunque anche a Paolo De Castro di essere stato con noi. Adesso in chiusura un servizio che ci porta al tema della lotta alla corruzione, in questo caso con una storia che si svolge tra Bruxelles e la capitale rumena Bucarest. Ce la racconta Silvia Bernardi. La Corte Europea per i diritti umani ha condannato la Romania per aver licenziato l'ex procuratrice anticorruzione Laura Codruta Kövesi dopo le critiche alle riforme legislative decise dal governo di Bucarest. È il 2018 quando Laura Kövesi, attualmente a capo della Procura Europea, l'agenzia istituita per indagare e perseguire frodi contro il bilancio dell'Unione e altri reati contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea, viene rimossa anticipatamente dall'incarico che ricopriva dal 2013. Da anni imperversava un aspro scontro fra il Partito Socialdemocratico, all'epoca al governo, e la magistratura rumena. Sotto il mandato di Kövesi era stato dato inizio ad una lotta senza precedenti alla corruzione e proprio il Partito Socialdemocratico erano stati i più duramente colpiti dal nuovo corso. Sotto la sua guida sono stati messi sotto indagine 14 ministri o ex ministri, 43 parlamentari e più di 260 eletti a livello locale, addirittura tra le figure di spicco anche l'uomo forte del PSD. Questo particolare impegno è valso a Kövesi l'appellativo di paladina alla lotta alla corruzione in Romania e il Parlamento europeo si è sempre detto al suo fianco nella difesa dello Stato di diritto, come conferma il presidente Tajani. Voglio esprimere tutta la preoccupazione del Parlamento europeo per la situazione creatasi e ribadire in modo chiaro che la signora Kövesi rimane la nostra candidata e gode della nostra fiducia e del nostro appoggio. La stessa Kövesi è sempre stata convinta di essere nella direzione giusta per la lotta alla corruzione. Dopo 2 anni la Corte europea ha sancito che è stata lesa la sua libertà d'espressione. È stata licenziata a causa delle critiche che aveva espresso nell'esercizio delle sue funzioni su soggetti di interesse pubblico, ha sottolineato la Corte. Il governo romeno non può giustificare in alcun modo questa ingerenza nella libertà di espressione del magistrato. Il licenziamento quindi è stato contrario alla stessa indipendenza giudiziaria e potrebbe scoraggiare altri procuratori e giudici dal partecipare al dibattito sulle riforme che toccano il settore. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa puntata di Europa Europa. Da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, l'augurio di un ottimo fine settimana. Adesso GR24 e noi. Per questo programma ci risentiamo la prossima settimana.